Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Con questo suono di cornamuse iniziamo l'incontro di oggi. Prima di presentarvi l'ospite, chiediamo a lui perché ha scelto questo suono di cornamuse. Ma questa è la canzone Amazing Grace, è una canzone di libertà, di spazi, di grande visione. Quindi è una canzone che ha accompagnato la mia vita, un po' una canzone del mondo anglosassone. È stata scritta per celebrare la liberazione della schiavitù. Il Parlamento inglese approvò la legge che proibiva il commercio degli schiavi e questa canzone accompagna questo momento di libertà che mi piace molto. Quindi un desiderio di libertà, un desiderio di apertura, di visione del mondo, direi che sono le doti di un ambasciatore. Abbiamo con noi oggi Giovanni Castellaneta, ambasciatore, attualmente presidente della SACE. Ambasciatore, cosa vuol dire essere ambasciatore? Lo si è per sempre. Sì, non si diventa subito ambasciatore. Come si diventa ambasciatore? C'è un concorso pubblico, ci sono una serie di prove, bisogna avere la vocazione soprattutto, non è una professione che richiede molto, è difficile, quindi uno si prepara anche prima di questo concorso pubblico, che è considerato un concorso difficile, quindi richiede un impegno iniziale molto importante. Poi c'è una serie di prove e poi non tutti, molti però diventano ambasciatori. Beh, anch'io da piccolo volevo fare l'ambasciatore, poi ho finito per fare il giornalista, insomma. Lei voleva fare l'ambasciatore fin da piccolo? La professione, anche io volevo fare giornalista, lo scrittore, tutti gli ambasciatori si sentono un po' scrittori, che noi passiamo la nostra vita a scrivere. I giornalisti anche spesso vogliono, o fanno, sono. Noi scriviamo per il pubblico, sì. Voi scrivete fino a quando non è arrivata WikiLeaks per invece le note riservate di solito. Sì, comunque facciamo tutta la nostra vita, scriviamo appunti, rapporti, cerchiamo di descrivere il paese dove siamo per dare informazioni al governo in modo che il nostro governo possa poi decidere. WikiLeaks non ha toccato la diplomazia italiana perché noi abbiamo uno stile diverso. Forse anche delle tecniche diverse di trasmissione, forse più sicure. Sì, anche un po' il formato però, perché le nostre analisi sono più analisi politiche, meno centrate sulla persona. La diplomazia americana è un po' come tutto il sistema americano, è più basato sul rapporto personale, sulle relazioni. Questo viene un po', emerge da questo tipo di... E invece il giornalismo italiano, che forse è basato un po' troppo sui pettegolezzi, un po' poco sulle analisi di grande scenario, ma su questo non le chiedo un giudizio. Torniamo un po' alla sua carriera, come è iniziata? Ormai sono 40 anni di carriera nel servizio diplomatico. Come sai, ci sono due tipi di carriere nel mondo. C'è la carriera dei diplomatici politici, c'è una base di diplomatici di professione, poi nelle sedi più importanti vengono nominati ambasciatori politici, che quindi sono più legati al governo o al presidente che li nomina. Sì, nel nostro caso invece è una carriera che amministrativa, cioè si parte da un grado iniziale e si finisce su un grado finale, che è quello di ambasciatore. Quindi io ho iniziato la mia carriera con una serie appunto di incarichi all'estero. Il primo è stato la Somalia, l'Africa non si dimentica mai. Diciamo, ha iniziato con un posto facile, insomma. Ma all'epoca era facile, all'epoca quando sono stato io, ormai negli anni 70, quando ho iniziato la mia attività diplomatica, ancora c'era il sapore della colonia italiana e gli italiani erano amati, come sa, a differenza di altri popoli. I colonizzatori italiani si sono sempre più o meno fatti apprezzare, anche perché hanno fatto grandi investimenti in quelle zone. Dopo la Somalia? E dopo la Somalia sono andato in Francia e dopo in Portogallo. Però prima di entrare nel servizio diplomatico, come diceva appunto, siccome è un po' una passione, una vocazione, ero già stato in Belgio, in Gran Bretagna. Insomma, da quando mi sono dalla laurea, cioè da quando ho cominciato iniziato il percorso universitario e dopo quello diplomatico, ho fatto moltissimi periodi all'estero. Ecco, perché poi è la stessa carriera che prevede di stare 3-4 anni in un posto e poi di cambiare, di fare altre esperienze, di fare appunto anche innalzandosi come gradini di carriera. Sì, noi abbiamo, insomma, si cerca di tornare con una certa frequenza a Roma, al massimo si può stare 8 anni all'estero e poi si rientra. Nel mio caso io ho cercato di fare metà e metà, sono su 40 anni di carriera, 20 in Italia e 20 all'estero, forse 18 in Italia e 22 all'estero. All'estero è stato tra l'altro nelle sedi più prestigiose come Washington, che è considerata la tripla A probabilmente delle sedi diplomatiche. Sì, sì, sì, devo dire che ogni diplomatico che entra in carriera pensa poi di finire ambasciatore a Washington, perché quando si dice Washington si dice gli Stati Uniti, quindi certo, si dice il nostro alleato più importante, un paese immenso. Che anche perché è una bella sede quella di Washington, proprio dal punto di vista dell'edificio, della villa in cui ha molto sede l'ambasciatore. Molto bella, questo è un po' il problema degli ambasciatori, che dopo aver vissuto ho abitato per 5 anni a Villa Firenze, con un parco di 8 ettari, però io non l'ho mai considerata casa mia, ecco, io ero un po' il gestore di questa casa, custode. Ho vissuto bene, poi tornando a Roma in 150 metri quadrati ci può essere qualche problema. C'è un po' di diversità. Cosa ricorda? Qualche aneddoto degli anni di Washington, qualche incontro particolare, qualche sorpresa che ha avuto, qualcosa che di inaspettato che le è capitato, anche magari di piccolo cabotaggio quotidiano? Ma io ho avuto la fortuna di arrivare a Washington dopo, avendo già conosciuto l'amministrazione americana, conoscendo molte persone, quindi mi sono integrato totalmente e ho avuto due periodi interessanti, il primo periodo con il presidente Bush, i 2 anni, poi c'è stato questo Bush padre, Bush figlio, no? Bush figlio. Bush figlio. E poi subito dopo è cominciato la campagna presidenziale, quindi ho seguito tutta la campagna presidenziale che ha portato poi alla vittoria di Obama come candidato democratico, e poi ho fatto un periodo, un anno e mezzo con Obama, quindi ho potuto, quello che è stato interessante per me fare il raffronto tra le due amministrazioni, ho potuto vedere i pregi e magari anche i difetti di un'amministrazione repubblicana e di un'amministrazione democratica, mentre in Italia ci sono stati due governi durante il mio certo periodo, prima Berlusconi, poi Prodi e poi di nuovo Berlusconi. Ecco, diceva, guardando un po' all'America, pregi e difetti, anche speranze e illusioni forse. Beh sì, Obama è stato eletto con una grande ondata di entusiasmo, di voler far dimenticare il passato, ma il passato più che le scelte di Bush, il passato di non essere amati. Gli americani pensano di poter esportare i valori del mondo, i valori del mondo occidentale, e quindi non sentirsi amati è una cosa che a loro non piace. Quindi Obama è stato un po' eletto su questa onda, dice riconquistiamo la simpatia del mondo. La simpatia del mondo, e beh, in parte ci è riuscito, almeno nei primi tempi, a riconquistare questa posizione. Lei è stato anche assistente ai vertici del G8, mi sembra. Sì, io sono stato quello che in gergo si chiama lo sherpa, lo sherpa, cioè quello che porta il peso. Cioè per 5 anni ho preparato a fianco del Presidente del Consiglio il G8, i vertici del G8, quindi, e poi che si è allargato via via, ho fatto il mio ultimo G8 che poi è diventato G20 a Pittsburgh. Cioè, ecco, G8 rimane, G7 rimane, G20 è un po' la nuova, sì, la nuova creatura. La nuova creatura. Ecco, se non ci fossero gli Sherpa, però questi vertici non avrebbero senso, o non avrebbero praticamente nessun risultato, perché non si può certamente fare degli accordi, delle intese nell'arco di poche ore, ci vuole una preparazione molto precedente. Ma ci sono gli aspetti dei documenti e delle decisioni che vengono prese, e questi in effetti da un anno all'altro, perché una volta all'anno di solito in estate si fanno questi vertici, quindi gli Sherpa che intorno a un tavolo si riuniscono una volta al mese durante questo periodo. Però c'è anche un aspetto personale che invece è dato totalmente ai capi di Stato, che in quei 2 giorni che si ritrovano insieme senza cravatta, così un po' in libertà, possono magari stabilire dei contatti personali e superare magari delle reticenze o cioè avere un rapporto diretto, è anche dal rapporto diretto che nasce, che può nascere un'intesa particolare, proprio dal rapporto tra singoli capi di Stato che appunto magari si vedono una volta l'anno e quindi in quel momento più che conoscersi, meno visti dal di fuori, è difficile pensare che possano fare qualcosa per il bene dell'umanità. Beh sì, la fiducia, cioè poi questi trattati, se lei mi chiede 5 anni fa cosa ha deciso il G8 in Francia, credo nessuno se lo ricorda, però quello che rimane è la fiducia, se c'è stata la promessa di fare qualcosa, se a un certo livello ci si basa veramente sulla parola data, più che sul pezzo di carta che poi è appunto materia di noi diplomatici. Quindi restano comunque degli elementi costruttivi, positivi, questi vertici tra i capi di Stato, non sono solo delle rappresentazioni, un po' di magnificenza. No, se si incontra non si litiga, normalmente se uno dialoga, il litigio, comunque la differenza viene stemperata, quindi sicuramente comunque utile. Poi se le spese sono elevate, qualche volta sono queste critiche, se ci sono, però è anche qualche volta un momento di promozione del paese. Incontri. E ancora con queste note di Cornamusa di Amazing Grace, una canzone scozzese, riprendiamo il nostro dialogo con l'ambasciatore Giovanni Castellaneta. Buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Ambasciatore. Volevo dire che questa canzone, Pipes and Drums, cioè sono le cornamuse e i tamburi, tamburi, che in questa prima parte non si sentono, ma anche i tamburi sono importanti, perché da una parte c'è la visione, la libertà, dall'altro i tamburi dimostrano invece la determinazione, la volontà, cioè le truppe o la gente che normalmente erano le truppe scozzesi che cornamuse e poi il tamburo seguiva e seguivano loro per conquistare allora, il territorio. Possiamo consigliare a chi ci ascolta, se vuole sentirla tutta, di andare su YouTube, probabilmente la trovano, sì, Amazing Grace. Con la versione Pipes and Drums, che ci sono è una delle canzoni che è stata più... elaborata, c'è Elvis Presley, ci sono anche moderni cantanti che l'hanno ripresa, che sia una delle canzoni che abbia maggior successo nel mondo. Qui sì, infatti è un classico, diciamo, tra le canzoni, un canto che appunto ricorda e celebra in fondo la libertà, la ricerca appunto del progresso, della crescita, cosa che dicevamo è compito anche precipuo di un ambasciatore. E un ambasciatore che forse da un anno ha cambiato mestiere, possiamo dire così, Giovanni Castellaneta, adesso come presidente della SACE, è ancora un ambasciatore italiano all'estero, ma in modo diverso. Beh sì, gli ambasciatori comunque sempre promuovono il prodotto italiano, promuovono quella che è l'eccellenza italiana. Quindi direi che per me è una continuazione di quello che io ho fatto, magari mentre ero un interlocutore degli imprenditori, cercavo di stabilire una cornice politica, una cornice di amicizia per quello che per il successo delle imprese italiane. Adesso sono dallo stesso lato, dalla stessa parte, cercare di aiutare gli imprenditori ad avere successo nel mondo attraverso gli strumenti che offre la SACE. Ecco, spieghiamo che cos'è la SACE. È una società di diritto privato, anche sì, se posseduta completamente dal Ministero dell'Economia, mi sembra. Sì, è una società per azioni, quindi che agisce come una società privata con un unico azionista che è il Ministero del Tesoro. Invece di avere vari azionisti ne abbiamo un solo padrone. E comunque a cui invece di chiedere dei capitali voi pagate ogni anno dei dividendi. Sì, noi abbiamo quindi lavorando come una società privata abbiamo un interesse che i conti siano in ordine e quindi avere anche un utile di bilancio. Questo senza però diminuire lo sforzo che noi facciamo per consentire alle imprese, non solo le grandi ma soprattutto le piccole e medie, di essere presenti sul mercato. Perché ormai nel mondo tre sono gli elementi importanti per vincere una gara o un contratto. Il prodotto che deve essere di eccellenza, il marketing, cioè la cornice politica o commerciale del prodotto, e il prezzo. E il prezzo ormai si fissa non solo sul prezzo vero e proprio, ma sulla sul pacchetto finanziario, certo, che accompagna. Quindi che sulle garanzie. Sulle garanzie. Quindi la SACE offre quelle garanzie che consentono alla società di offrire un pacchetto a dei costi ridotti e consentendo all'impresa anche di lavorare in maniera più serena, più tranquilla, sapendo che, essendosi assicurata, essendo garantita, comunque il contratto andrà a buon termine. Quindi voi siete più un'assicurazione che una banca? No, siamo un'assicurazione che ha una gestione finanziaria, non siamo una banca, siamo una finanziaria assicurativa, nel senso che soprattutto siamo anticiclici, soprattutto nel senso che dopo la crisi del 2008 soprattutto le banche hanno più difficoltà a prestare, hanno una serie anche di requisiti che ne consentono di dare con la stessa facilità di prima i finanziamenti, e quindi la nostra garanzia serve a facilitare la concessione del finanziamento da parte delle banche. È un po' un circolo virtuoso in cui la società, la banca e la SACE insieme riescono a mettere su un pacchetto finanziario che altrimenti non potrebbe essere concesso. Cioè, in un certo senso la banca scivola, manda su di noi una parte del rischio. Una parte del rischio, certo. E questo è particolarmente importante, soprattutto in un momento, diciamo, come l'attuale, in cui le imprese italiane devono cercare di trovare nuove strade, nuove formule competitive. Come vede questo momento dell'economia in questa fase in cui c'è comunque una crescita a livello internazionale, ma l'Italia fa un po' fatica ad agganciare questa crescita? Sono i due aspetti, cioè il prodotto che deve essere innovativo, sempre più ricerca, sempre più le imprese devono dedicare alla ricerca almeno il 10% del fatturato, che un 10-15% è quello che una società dovrebbe fare per essere sempre in concorrenza. E poi c'è questa fortissima concorrenza finanziaria, perché se si presenta con un pacchetto di garanzie, con dei finanziamenti a medio termine e più interessanti, la controparte li acquista. Quello che fanno, devo dire, noi ci confrontiamo continuamente con cinesi, coreani, giapponesi, tedeschi, francesi, canadesi, americani, che a fianco del prodotto offrono un pacchetto finanziario, una garanzia che consente spesso di battere l'impresa italiana. Noi cerchiamo invece di vincere noi, quindi questo è il nostro obiettivo. Lei si sente tranquillo, dice: noi stiamo offrendo alle imprese tutto quello che possiamo fare per cercare, dal profilo appunto delle garanzie finanziarie, di avere il massimo di competitività? Sì, anzi direi che spesso le piccole e medie imprese, le grandi ci conoscono bene, le piccole e medie imprese non ci conoscono abbastanza e qualche volta appunto non profittano di degli strumenti che noi possiamo offrire, che non è solamente la garanzia all'incasso o di un contratto, è tutto il pacchetto finanziario che va dalla performance bond, che va dalle cauzioni, fiduzioni. E quindi anche una consulenza complessiva. Consulenza complessiva. Noi abbiamo degli uffici all'estero, nei paesi in cui siamo più presenti, in Russia, in Brasile, in Cina, in Sudafrica. Abbiamo una piccola rete di uffici all'estero, nei paesi dove siamo, in Turchia, Istanbul, proprio perché vogliamo stare vicino alle imprese, soprattutto alle piccole e medie. Ripeto, mentre le grandi sanno cos'è la SACE, anzi la utilizzano secondo le proprie capacità, le piccole e medie spesso hanno paura o pensano che sia un costo andare sottoscrivere una polizza SACE, nel senso invece, secondo me, incoraggiarle a capire che invece che essere un costo è un vantaggio. È un vantaggio, cioè è qualcosa che offre una garanzia e quindi anche una certa tranquillità sotto il profilo appunto dell'accesso ai mercati esteri. Cioè, offre un prezzo minore. Soprattutto quello, cioè non... Il prezzo ormai è formato non solo dal costo del prodotto e dal giusto guadagno, ma anche dal costo del finanziamento, e quello noi cerchiamo di abbassarlo al massimo. Ecco, lei ha parlato appunto della presenza della SACE negli uffici esteri per essere vicini anche sul fronte appunto di dove avvengono poi le operazioni di export oppure di forniture di servizi. Si parla molto della necessità di razionalizzare un po' la promozione italiana all'estero. Ci sono tante organizzazioni, dalle ambasciate, all'ICE, la stessa SACE, adesso anche le regioni. Ecco, lei è d'accordo nella necessità di rendere più omogeneo, più razionale questo approccio verso la promozione delle esportazioni? Totalmente, c'è una grande, tanti mezzi che però poi non sono razionalizzati, non fanno sinergia tra di loro, ma invece bisogna riportare ai tre momenti importanti per aiutare l'export, che sono la promozione del prodotto, l'assistenza alle imprese e la copertura finanziaria. E questo, partendo da questi tre pilastri, intorno si può ricostruire una razionalizzazione che onestamente adesso, nelle mie 40 anni di esperienza, spesso ho avuto invece esempi. Ha potuto toccare con mano. Ecco, e come vedono all'estero, anche se forse è difficile generalizzare, però il Made in Italy è ancora un vantaggio competitivo? Solo la parola Made in Italy? Sì, Made in Italy è way of life, cioè come si vive in italiano, in Italia. Quindi non è solamente, ed è importante però, la moda, la cucina, quelle che un po' sono il design, che sono le nostre punti di forza, però noi siamo sempre più forti nel settore manifatturiero, nel settore industriale. Cioè negli ultimi anni ho notato, in America per ultimo, che il prodotto italiano non è solamente bello, ma è anche funzionale ed è anche solido. E anche utile, speriamo anche che possa essere utile a migliorare appunto la qualità della vita e dia magari qualche emozione in più. In fondo quello che si chiede ogni tanto facendo degli acquisti, ma magari comprando un'automobile, qualcosa di più che non essere portati da una parte all'altra. Forse questa è la più bella soddisfazione per un diplomatico e un presidente della SACE, che un contratto di un prodotto italiano si concluda e si possa vendere all'estero. Che consiglio darebbe a un piccolo imprenditore che volesse appunto trovare un nuovo mercato? Si parla sempre della Cina, ma qualche altra possibilità al di là della Cina, che ormai domina i nostri pensieri? Sì, ma se Cina, India e gli altri, però io mi direi guardatevi un po' intorno più da vicino, per esempio quello che sta succedendo nei paesi del Nord Africa, che in un primo approccio potrebbe sembrare pericoloso, drammatico, a mio avviso invece contiene i germi per un grande sviluppo. Il momento storico ha dato all'Italia un ruolo particolare, alle imprese italiane un ruolo particolare di approfittare di questo momento di crisi, per esempio nei paesi del Nord Africa, o anche un momento di sviluppo nei Balcani, cioè nelle aree vicine o in Turchia, tutto quello un po' l'area del Mediterraneo, per puntare anche in questi paesi dove, per una serie di ragioni storiche, culturali, geografiche, noi siamo più vicini, e superare questo momento di paura, chissà cosa succede. E considera appunto anche questo cambiamento nel mondo arabo che abbiano molte opportunità, qualche rischio c'è comunque. Il rischio a breve termine c'è, però credo che nel medio termine il rischio non lo vedo, anzi vedo una grande opportunità di sviluppo. Ed è un ottimismo della ragione, non solo del carattere. È quello che è un po' il lavoro diplomatico, mettere insieme la ragione con le emozioni. Grazie a Giovanni Castellaneta, presidente della SACE, di essere stato con noi questo pomeriggio. Così come ringrazio Valeria Bernardi in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.